16:41 minuti primi al 16:41 minuti primi in ascolto ai microfoni di Radio Default e sulle note degli Electro Waves che rimandano il grande slogan "Il popolo vuole la caduta del regime", va in onda la puntata numero 0 di Surbina Intifada, la rassegna stampa internazionale improntata a parlare delle rivolte e delle rivoluzioni che avvengono nel mondo, ricordandoci sempre che, come diceva un vecchio saggio, non c'è voce più forte della voce della sollevazione. Quindi puntata numero 0 della trasmissione che andrà in onda tutti i sabati, cioè ogni terzo sabato del mese, ogni terza domenica del mese, scusate, i postumi del sabato sera si fanno sentire e ci scusiamo anche in anticipo della nostra parlata un po' sbiascicata. Quindi appunto trasmissione su rivolte e rivoluzioni che cercherà appunto di parlare un po' di ciò che avviene nel mondo senza soffermarsi su le amanti del presidente francese François Hollande o dei Sorrentino al Golden Globe, ma appunto cercheremo di parlare dei sommovimenti che avvengono a quanto pare in tutto il mondo tranne che da noi. E quindi ricordiamo subito i contatti della radio: www.radiodefault.it per avere il nostro palinsesto e le nostre sapere di essere aggiornati sulle nostre iniziative e sulle repliche delle nostre trasmissioni. Mentre radio.default è l'account Skype che potete aggiungere per poter fare domande, minacce, imprecazioni e via dicendo. Trovarci, avere gli aggiornamenti in tempo reale di ciò che succede in radio grazie alla nostra pagina Facebook Radio Default. E quindi cominciamo subito con ciò che succede nel mondo. Esattamente iniziamo con il Bangladesh. Bangladesh, Bengala orientale, un articolo tratto da scritto da Pierre Rousset per il settimanale L'Anticapitalist, il settimanale francese del Nouveau Parti Anticapitalist, che si intitola Bangladesh, un paese al limite del punto di rottura. E quindi cominciamo a capire cosa è successo alle ultime elezioni in Bangladesh. Uno dei tre giganti demografici dell'Asia del Sud, con l'India e il Pakistan, il Bangladesh attraversa una crisi profonda della quale non si vede lo sbocco. Nel Bangladesh si sono appena tenute le elezioni legislative, che non porranno fine a una crisi con molti aspetti, che risulta ogni anno più acuta. Innanzitutto c'è la crisi politica. Al potere dal 2008 la Lega Awami ha ottenuto l'80% dei seggi allo scrutinio legislativo del 5 gennaio. La prima ministra uscente, Sheikh Hasina, rimane al suo posto. L'opposizione, condotta dal Partito Nazionalista del Bangladesh, alleato degli islamisti, ha boicottato le elezioni e non ne accetta il risultato. anche nel BNP la figura di punta è una donna, l'ex prima ministra Khaleda Zia. L'Unione Europea, gli Stati Uniti e il Commonwealth hanno preso le distanze dal regime, rifiutando di mandare missioni di osservazione della campagna elettorale, durante la quale sono state uccise circa 150 persone. Le violenze politiche hanno segnato l'intero anno 2013, con probabilmente 500 morti, il bilancio anno più alto dall'indipendenza. Tradizionalmente in Bangladesh, per organizzare nuove elezioni, si forma un governo, tra virgolette, apolitico, di transizione. Questa volta la Lega Awami si è opposta, offrendo l'occasione al BNP, di cui parecchi dirigenti sono in galera o in fuga, di chiamare al boicottaggio. Vi è poi la crisi istituzionale. In Bangladesh l'Islam è la religione di Stato, ma non di meno il regime è largamente laico e la sinistra secolare è potente. Però l'ascesa dei fondamentalismi religiosi nella regione, induista in India, buddista in Sri Lanka e musulmano in Pakistan, si fa sentire anche nel paese, mettendo in discussione i riferimenti laici, secolari, delle istituzioni e riaprendo le ferite della guerra di liberazione. Dal 47 al 71 il Bangladesh attuale costituiva il Pakistan orientale, dominato dal Pakistan occidentale. Ha ottenuto l'indipendenza dopo una lotta armata con l'appoggio dell'India, ma i principali movimenti islamisti di oggi hanno fornito soldati suppletivi all'esercito pakistano durante quel conflitto sanguinoso nel quale hanno commesso numerosi crimini di guerra. Il loro attivismo attuale e il loro radicalismo fondamentalista, particolarmente contro le donne, hanno provocato una reazione di massa che esige che i loro dirigenti siano finalmente processati per i crimini del 71. Nel dicembre scorso uno di loro, Abdulkader Mollah, vicino al BNP, è stato condannato a morte. Vi è poi la crisi sociale. Il crollo dell'edificio industriale Rana Plaza nell'aprile 2013 nella periferia di Dhaka, 1200 morti, ha rivelato all'opinione pubblica mondiale la precarietà estrema e il livello di sfruttamento imposti alle operaie del tessile. La mondializzazione capitalista, gli agganci fra padroni locali e committenti internazionali, la concorrenza imposta ai paesi produttori di abbigliamento hanno provocato una crisi sociale esplosiva che si manifesta in Bangladesh, Cambogia, India, Pakistan. Una crisi sociale che colpisce appieno anche i contadini. Vi è poi la crisi climatica. Il Bangladesh è forse il grande paese più colpito dalle conseguenze del surriscaldamento atmosferico. È già stato colpito da cicloni micidiali e da piogge monsoniche torrenziali. Si stima che la metà del territorio, di cui il 10% si trova al di sotto del livello del mare, verrebbe allagato se il livello dell'oceano aumentasse di un metro. Una gran parte della popolazione è minacciata, poiché il delta del Gange e del Brahmaputra è anche la regione più fertile dove è particolarmente alta la densità umana. Di fronte al caos climatico, la popolazione si trova indifesa. Il paese sta per conoscere un numero crescente di rifugiati interni che renderanno ancora più fragile un tessuto sociale minato dalle politiche liberiste e dalle violenze religiose e settarie. Gli spostamenti migratori si orientano anche verso l'India, paese frontaliero del Bangladesh, dove si rafforzano i movimenti xenofobi. La crisi del Bangladesh può contribuire a destabilizzare parecchie regioni dell'Asia del Sud. E quindi questo era l'articolo di Pierre Rousset, tratto da L'Anticapitalist, il settimanale francese L'Anticapitalist, e tradotto in italiano da... per il sito di Movimento Operaio di Antonio Moscato. E quindi questa è la prima è il primo articolo di oggi. Passiamo poi un po' l'avvicino alla Cambogia, dove ultimamente vi è stato un grande sciopero dei degli operai tessili, sciopero che ha portato a manifestazioni e una forte repressione, di cui però si è parlato poco nel nostro paese. E quindi noi andiamo a leggerci il resoconto di Nathan Thompson, che Nathan Thompson ha scritto per la rivista statunitense Vice. La polizia cambogiana continua a uccidere gli operai che fabbricano i nostri vestiti. Sabato, articolo del 7 gennaio 2014. Sabato a Phnom Penh la polizia ha aperto il fuoco contro un gruppo di manifestanti, uccidendo 4 persone e ferendone altre 21. Le morti arrivano dopo mesi di tensioni e violenze tra le autorità e gli operai del tessile che protestano per aumenti salariali. La situazione è peggiorata giovedì sera, quando nella capitale cambogiana una squadra di polizia è stata respinta da un edificio occupato dai manifestanti. Da allora la polizia militare occupa una delle principali strade cittadine, Bangsrang. I manifestanti, per lo più donne, sono stati rimpiazzati da orde di giovani uomini armati di barre di metallo e macete, protetti da muri di lacrimogeni. A un certo punto la polizia ha deciso di rispondere coi proiettili e una vicina clinica che aveva rifiutato di accogliere i feriti è stata saccheggiata. Tra i feriti c'era anche una donna incinta che tentava di fuggire dal caos. Negli ultimi mesi gli operai della SL, uno stabilimento tessile che rifornisce diverse catene occidentali, avevano indetto diversi scioperi. L'ultimo si è tenuto il 22 dicembre, giusto in tempo per la mobilitazione generale del giorno di Natale. Le vittime di sabato non sono le prime. A novembre un passante strano ai fatti, Eng Sokom, che gestiva una bancarella, è stato ucciso da un proiettile vagante esploso dalla polizia, mentre 9 sono rimasti feriti e 37 sono gli arrestati. Gli episodi di repressione sistematica delle forze dell'ordine risalgono invece ad agosto, quando 19 operai iscritti ai sindacati sono stati licenziati e un azionista della SL, Meas Sota, ha portato con sé le sue guardie personali per motivi di sicurezza. Alla fine 19 licenziati sono stati reintegrati, ma per i dipendenti della SL non è cambiato molto. L'agitazione non è confinata ai cancelli della SL. La Garment Manufacturers Association of Cambodia stima che più di un quarto dei giorni lavorativi degli ultimi 2 anni sia andato verso i scioperi. A maggio i manifestanti hanno bloccato la strada che percorrono ogni mattina per andare al lavoro, sbarrandola con 3 tubi di cemento. Mentre alcuni cercavano di circumnavigare il blocco con il proprio scooter, ho accostato e mi sono messo a parlare con i dimostranti. La storia che raccontavano è quella che si ripete ogni singolo cancello di ogni fabbrica cambogiana. Gli operai richiedono salari più alti, ma i superiori dicono di non poterselo permettere, ed entrambi concordano sul fatto che i marchi occidentali dovrebbero comprare a prezzi maggiori. L'industria del tessile raccoglie l'80% delle esportazioni nazionali e dà lavoro a 400.000 persone, mentre altre 300.000 sono impiegati in posizioni di supporto. Sono per lo più giovani, di sesso femminile a basso reddito. Nelle campagne cambogiane molti lasciano la scuola per ingrossare le fila degli operai. Ho vissuto in un paesino per un certo periodo di tempo e l'esperienza di insegnante di inglese mi ha permesso di notare la frequenza con cui le ragazze scomparivano dai banchi. Chiedevo, dov'è Srai Neung? Usando un nome tra tanti. E la risposta era sempre la stessa. È andata a lavorare in fabbrica. Srai Neung, come molte altre della sua età, lavora 60 ore a settimana per mandare a casa l'equivalente di 21 euro. È stata relativamente fortunata ad aver iniziato a lavorare nel 2013. 10 anni fa la situazione degli operai era atroce. Rina Roat ha iniziato nel 2003. Prendeva poco più di 30 euro al mese, dedicando 20 ore al giorno alla fabbrica. Soffriva di depressione ed esaurimento, ma era troppo preoccupata di perdere il lavoro per cercare di uscirne. Oggi è un'imprenditrice, ma le sue mani portano ancora i segni degli anni dietro ai macchinari. Da allora ci sono stati piccoli passi in avanti. Tra il 97 e il 2013 il salario minimo è passato da 32 euro a 58, ma è abbastanza per coprire il costo della vita? Joseph Lee, direttore della SL, mi ha spiegato che per sopravvivere i suoi operai hanno bisogno di 42 euro al mese. Per sopravvivere intende dividere una stanza con altre 4 persone, mangiare esclusivamente pasti precotti scadenti e spostarsi in carri bestiame sovraffollati. Ovvero niente di lontanamente accettabile secondo Hat Thorn, presidente della Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union. Mi segnala che secondo il Ministero del Lavoro cambogiano la cifra di cui ha bisogno un operaio tessile per sopravvivere si aggira intorno ai 114 euro. Questo tira e molla tra fabbriche e sindacati è comune e spesso innesca ulteriori proteste e violenze. Joseph Lee dice che questo è l'anno peggiore che ricordi. Mi ha spiegato che il suo autista è rimasto parzialmente cieco dopo uno scontro tra manifestanti e la sicurezza in fabbrica il 1 novembre. L'autista stava cercando di fuggire dalla confusione quando è stato colpito al volto da un cuscinetto a sfera. L'impatto gli ha fatto esplodere la pupilla. Lì racconta anche che un lavoratore è stato colpito da un mattone mentre andava al lavoro perché non voleva unirsi alla protesta. Era l'uomo più bello della fabbrica, ma ora non è più così. Vorrei aumentare gli stipendi, ma come faccio se le aziende continuano a insistere per abbassare il prezzo? Alcuni buyer di aziende importanti hanno cominciato a prendersi delle responsabilità. H&M, la nota marca di abbigliamento statunitense, credo, ha selezionato 2 fabbriche, una in Bangladesh e una in Cambogia, per testare un sistema che consiste nell'intervistare i dirigenti e lo staff per capire qual è il salario medio e, in caso, fornire fondi extra dai propri guadagni. si sono impegnati a pagare un salario medio, ma non prima del 2018. Ko Chong-ho, il direttore generale della SL Factory, mi ha detto che se i buyer aumentassero i loro prezzi, lui sarebbe in grado di pagare di più gli operai, cosa che porterebbe pace e stabilità nell'industria. Di certo i brand occidentali dovrebbero prendersi più responsabilità, ma la cosa non risolverebbe completamente il problema, non finché la corruzione sarà così diffusa. La Cambogia è il 17° paese più corrotto al mondo, secondo Transparency International. Col Preap, direttore esecutivo di Transparency International Cambodia, mi ha detto che anche se non ci sono dati precisi, sa che le fabbriche tessili devono pagare grandi tangenti alla polizia. Ko si è rifiutato di commentare. Il partito d'opposizione, Cambodian National Rescue Party, sostiene che le scorse elezioni siano state truccate, promettendo agli operai delle fabbriche 127 euro in più a fine mese. La pressione sul primo ministro Hun Sen cresce sempre di più. E questo articolo vuole, insomma, ci va a illuminare su una situazione che in parte esiste anche qua in Italia, perché insomma, mi pare dello scorso novembre la tragedia avvenuta a Prato, dove in un incendio sono morti i lavoratori di un'azienda tessile abusiva cinese, mentre di un anno fa era il caso c'è stato il caso del crollo della palazzina Barletta, in cui sono morte altre operaie tessili che lavoravano al nero a prezzi, potremmo dire, per stipendi potremmo dire cambogiani, e di sicuro c'è che queste con la scusa della crisi si prova sempre a dire che bisogna abbassare i salari. Nel caso del tessile c'è anche chi sposta l'attenzione sui compratori che cercano dei fornitori a prezzi sempre più bassi, facendo poi profitti d'oro. Di certo c'è che in questo caso alcuni aumenti salariali sono stati ottenuti dai lavoratori cambogiani tramite l'auto-organizzazione e gli scioperi, insomma si spera che si possa andare sempre più avanti. Ora facciamo uno stacchetto musicale, riposiamo un po' la nostra voce, vi lasciamo con un antico inno di liberazione. Che sta musica sa da cagnà, simma brigante facimma paura, e ca scuppetta vulimma cantà, e mo cantamma sta nuova canzona, tutta la gente se la tamparà e non ce ne fottero re Bourbona, a terra nostra non so. We'll be right back. se nasce. E brigante, sì, brigante se muore. Ma fino all'ultimo avimmo a sparare. E si morimmo, buia, manato nuciura. E noi stemmo per sta libertà. E noi stemmo per sta libertà. E ripigliamo con Surbina Intifada la rassegna stampa mensile di Radio Default sugli avvenimenti internazionali. Abbiamo chiuso con i belli blaster che cantavano Brigante se more. È una canzone che si chiude con Se moriamo lasciate un fiore e una bestemmia per questa libertà. E quindi ripigliamo con le letture, ci spostiamo dall'estremo al Medio Oriente, specificatamente in Siria. Siria, epicentro di una rivoluzione che poi è sfociata anche in una lotta armata ormai da 3 anni, e che è rivoluzione che viene spesso snobbata da sia dai media mainstream e sia spesso diffamata dai media dei compagni, non ultimo oggi il signor Giulietto Chiesa, che ha pubblicato un articolo delirante su CIA e servizi segreti, insomma, come al suo solito. Lo stesso Giulietto Chiesa che qualche mese fa aveva scambiato un articolo preso da un giornale satirico, l'aveva scambiato per Verità e aveva annunciato al mondo che Al Qaeda, la nota formazione terroristica islamica, si era sciolta. E quindi andiamo a parlare di Siria con un po' più di raziocinio, e soprattutto parliamo di ciò che sta succedendo. Leggeremo due articoli, il primo dei quali parla della situazione che si sta svolgendo in questi giorni al campo profughi palestinese di Yarmouk, vicino Damasco. Campo profughi posto sotto assedio dalle forze del regime da ormai 15 mesi, e in cui si stanno verificando da 2 settimane a questa parte i primi morti per fame, con i media del regime che accusano di ciò gli oppositori che stanno nel campo. Noi andiamo a leggere un articolo di Leila Nashawati, una giornalista siriano-siro-spagnola, che ha scritto Yarmouk e la menzogna della neutralità. È un articolo che in risposta a un articolo di Ali Abu Nima, direttore di Electronic Intifada, rivista elettronica che contiene spesso delle analisi molto argute, ma purtroppo questa volta Ali Abu Nima ha scritto un articolo sui palestinesi intrappolati nella guerra siriana, in cui appunto parla di una presunta neutralità dei palestinesi. Noi andiamo a leggere questo articolo, che è disponibile sul sito di La Nashawati, che è lelanashawati.net, che è in inglese, quindi vado a fare una traduzione simultanea, spero che mi perdonerete qualche errore. Insomma, la menzogna della neutralità. Come molti altri quartieri siriani, grossi pezzi del campo profughi palestinese di Damasco, Yarmouk, si sono uniti alle mobilitazioni pacifiche e agli sforzi della società civile che sono sorti nel marzo 2011 e che sono stati violentemente repressi dal regime. Agli inizi di giugno 2011, è stato creato un comitato di coordinamento locale per coordinare le proteste e le manifestazioni, gli striscioni, gli slogan e il lavoro civile. Muhammad, che mi ha chiesto di non rendere pubblico il suo cognome, Edabu al-Abd Guevara, che è invece un soprannome, due siriani palestinesi che sono dovuti fuggire e che ora vivono a Madrid, all'epoca erano nel campo di Yarmouk. Secondo Guevara, confondere il fatto che Yarmouk fosse uno spazio aperto ed ospitale con una posizione di neutralità è estremamente fuorviante. E continua, la gente fuggiva dal regime e i membri dell'opposizione civile venivano da tutta la città per rifugiarsi a Yarmouk. Abbiamo lavorato tutti insieme nel campo, abbiamo organizzato le manifestazioni e venne formato un comitato di coordinamento. Il regime ha cominciato a prendere di mira qualsiasi forma di attivismo pacifico, manifestazioni, graffiti, slogan e strutture della società civile. Questo è ciò che stava avvenendo in tutto il paese, prima che la sollevazione divenne una ribellione armata. E così Yarmouk era neutrale come era neutrale tutto il resto della Siria, quindi non lo era neutrale. È vero che molti di noi non volevano l'FSA, cioè l'Esercito Libero Siriano, all'interno del campo, perché pensavamo che il campo avrebbe pagato un alto prezzo, e volevamo proteggere il popolo. Comunque le cose sono andate a peggiorare dopo che il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, Comando Generale, ha ucciso 13 giovani palestinesi. Gli Shabiha, cioè praticamente le squadracce, potremmo tradurlo con le squadracce del regime di Assad, gli Shabiha del Comando Generale sono altrettanto responsabili per le sofferenze che stanno soffrendo nel campo di Yarmouk, così come lo stesso regime. L'articolo di Ali Abu Nima, già dal titolo I palestinesi intrappolati nella guerra in Siria, afferma che i palestinesi partissero da una posizione di neutralità, come se solo i palestinesi e non tutti i civili nel loro complesso fossero intrappolati in questo tragico conflitto. Si insiste ancora sulla neutralità, in un pezzo che dice, secondo Abu Nasser, mentre alcuni giovani nel campo si organizzavano per sostenere l'opposizione siriana, Yarmouk è rimasto neutrale durante tutto il primo anno della rivoluzione siriana, nella convinzione che il campo sarebbe rimasto al di fuori del conflitto. Inoltre, aggiunge che Inoltre, oltre a ciò, il sottotitolo dell'articolo, L'esercito siriano entra nel campo e il regime lo bombarda, ci ricorda ciò che dice le giustificazioni di Israele contro Hamas durante gli attacchi contro Gaza. E così, se l'esercito libero siriano, una resistenza armata legittima, non come i gruppi illegittimi come l'esercito islamico dell'Iraq e del Levante. Così se l'esercito libero siriano è stato come se appunto l'esercito libero siriano fosse responsabile dell'ignobile rappresaglia del regime contro i civili. E come se Assad avesse bisogno di scuse per bombardare e ridurre alla fame i civili. La neutralità del campo di Yarmouk è falsa e quindi va a citare Talal Alian, che ha scritto su Mondovice, il movimento pro-palestinese ha avuto un grande ritardo nell'accorgersi della tragedia di Yarmouk. E questo, vabbè, è ovvio anche perché Yarmouk è sotto assedio da ormai un anno e mezzo, mentre la solidarietà internazionale se n'è accorta soltanto ora. E poi continuiamo con i siriani palestinesi sono parte della realtà in cui vivono. E quindi connessa a questa falsa affermazione di neutralità è il fatto che i palestinesi possano essere scorporati dalla realtà di cui hanno fatto parte per numerose generazioni. Malgrado il forte senso di identità come palestinesi, i palestinesi siriani sono culturalmente e socialmente siriani e hanno ugualmente sofferto la corruzione e l'ingiustizia istituzionalizzata del regime di Assad. Ci sono palestinesi che marciscono nelle carceri di Assad e ci sono palestinesi che fanno parte delle squadracce di Assad. Quindi vedere i palestinesi come vittime neutrali nel conflitto siriano è estremamente pericoloso ed irresponsabile, oltre che inaccurato. L'articolo di Abu Anima inizia sottolineando che i palestinesi sono stati colpiti in maniera esagerata. Più della metà dei 540.000 profughi palestinesi nel paese è stata costretta ad andare via dalle proprie case, dai combattimenti. Questo è vero, però dobbiamo aggiungere che più della metà della popolazione siriana, cioè 23 milioni di persone, ora sono o profughi all'esterno o sono profughi interni. Quindi non c'è nessuna mancanza di proporzione, non c'è nessuna ineguaglianza, cioè c'è una proporzione tra i rifugiati, la seconda fuga dei palestinesi e la fuga dei civili siriani. E oggi ci sono persone in tutto il paese, tra cui i siriani palestinesi, che stanno morendo di fame in quartieri come Yarmouk e Mu'addamiya. La strategia di affamare la popolazione è deprecabile e intollerabile. E dovrebbe essere e bisognerebbe far vedere che sta colpendo tutti, non solo i palestinesi. Senza riguardo per la religione o l'etnia di chi appunto subisce questo trattamento. Nello stesso modo, la lotta per i diritti umani nella regione dovrebbe essere sostenuta nel suo complesso. Dopotutto, la liberazione della Palestina non verrà raggiunta a meno che i popoli della regione non si libereranno dall'oppressione. E quindi scusate ovviamente le imprecisioni nella traduzione, ma è stata appunto fatta sul momento, e quindi questo ci sembrava un articolo interessante che punta a dare una visione leggermente diversa di questo di ciò che sta succedendo a Yarmouk. Quindi non si parla di dove appunto i palestinesi sono parte integrante del popolo siriano e che quando la gente dice sì, i palestinesi in Siria sono sempre stati trattati meglio rispetto ai palestinesi in Libano o in Giordania e che avevano appunto gli stessi diritti dei cittadini siriani, noi diciamo sì, avevano indubbiamente gli stessi diritti, ma come cittadini siriani erano anche vittime della stessa oppressione che avevano i normali cittadini siriani non palestinesi. E quindi questo era il primo articolo. Il secondo è un articolo datato a novembre, scritto da Leila Shrooms, un'attivista anarchica che ha scritto questo documento per il network Tahrir ICN e tradotto dalla Commissione Internazionale di Comunia Network, che si intitola La lotta continua all'opposizione popolare in Siria. Ovviamente andremo a leggere degli stralci dell'articolo, che è abbastanza lungo, e che trovate sul sito communianet.org. E quindi lasciamo la parola a Leila Shrooms. Il dibattito sulla Siria è stato dominato dalle discussioni sulla militarizzazione, l'islamizzazione, il settarismo e le preoccupazioni geopolitiche, mentre si è parlato davvero poco dell'opposizione popolare. Ciò significa che al di fuori della Siria gli attivisti che vogliono portare solidarietà ai rivoluzionari non sanno da dove iniziare. Questo articolo cerca di fornire un'introduzione ad alcune delle numerose iniziative di resistenza civile che si stanno svolgendo sul campo e degli sforzi di auto-organizzazione rivoluzionaria. non è assolutamente una panoramica completa, ma si concentra su quelle iniziative che non sono né di carattere partitico né di carattere religioso. Bisogna ricordare che in Siria, prima del marzo 2011, non c'era una società civile funzionante, visto che i diritti di libera espressione, assemblea ed associazione subivano delle grosse restrizioni con gravi conseguenze per chi le violava. Chi c'è nell'opposizione popolare civile? Il nucleo dell'opposizione popolare è composto da giovani, prevalentemente provenienti dalla classe operaia e dalla classe media, nel quale svolgono un ruolo attivo le donne e i vari gruppi religiosi ed etnici. Molti di questi attivisti non sono associati alle ideologie politiche tradizionali, ma si preoccupano per la libertà, la dignità e la giustizia sociale e i diritti umani. E quindi i comitati locali ed i consigli locali. La principale forma di organizzazione rivoluzionaria è a livello locale, tramite il lavoro dei comitati e dei consigli, influenzati dall'opera dell'anarchico siriano Omar Aziz. Egli affermava che per i rivoluzionari era un'incoerenza partecipare alle proteste quotidiane per poi tornare a vivere all'interno delle strutture gerarchiche ed autoritarie imposte dallo Stato. Aziz credeva che l'attività rivoluzionaria dovesse pervadere tutti gli aspetti della vita e promuoveva dei cambiamenti radicali nelle relazioni sociali e nell'organizzazione, invocando un'organizzazione autonoma e non gerarchica e l'autogoverno fondato sui principi di cooperazione, solidarietà ed il mutuo soccorso. Insieme ad altri compagni ha fondato il primo comitato locale a Barze, Damasco. Ovviamente io mi scuso per il mio arabo pessimo e inesistente. Oggi nelle città e nei quartieri di tutto il paese sono sorti centinaia di comitati e coordinamenti locali. Nei comitati gli attivisti rivoluzionari svolgono numerose attività, dalla documentazione delle violazioni commesse dal regime, e sempre più da alcuni elementi dell'opposizione, all'organizzazione di proteste, campagne di disobbedienza civile, come gli scioperi e le autoriduzioni delle bollette, e la raccolta e la fornitura di aiuti umanitari alle zone sotto bombardamento e sotto assedio. Operano con un'organizzazione orizzontale, senza capi e con una composizione che abbraccia tutti i settori della società. Anche se sono organizzati a livello locale, hanno costruito delle reti di solidarietà e di mutuo soccorso per tutto il paese. Sono stati istituiti dei consigli locali a livello cittadino e distrettuale. Ce ne sono 128 in tutta la Siria. Spesso sono le principali strutture amministrative civili nelle aree liberate, così come in alcune aree che rimangono sotto il controllo dello Stato. Assicurano la fornitura dei servizi di base in coordinamento con i comitati locali. Si coordinano con i gruppi della resistenza armata e mantengono la sicurezza. Seguono soprattutto delle forme di rappresentanza democratica e dove vengono istituiti si svolgono delle libere elezioni, un fatto mai avvenuto in Siria in 40 anni di dominio del partito Baas. Alcuni consigli rileggono i rappresentanti ogni 3 mesi e non vi è nessun leader. Con il peggioramento della situazione umanitaria hanno svolto un ruolo sempre più vitale, ma devono affrontare molte difficoltà. La scarsità di risorse ha portato alcuni comitati a sospendere la propria attività, come è successo ad Aleppo. In un appello per sostenere i consigli locali, Razan Zaituni, un attivista per i diritti umani, ha detto che non possiamo continuare a chiedere ai consigli locali di svolgere il proprio ruolo senza sostegno e senza piani occupazionali che li aiutino a compiere le principali attività per aiutare i civili a sopravvivere agli assedi e bombardamenti. Questi piani includono la fornitura di acqua potabile, la raccolta dell'immondizia dalle aree residenziali e il sostegno ai progetti che forniscano cibo alle aree assediate e a rischio di carestia. Sottolinea inoltre che la mancanza di risorse rende i consigli locali influenzabili dai gruppi armati e che bisogna aiutarli ad essere indipendenti dal sostenere le fazioni che provano ad armare la regione per stabilire la propria influenza sul campo. Almeno un consiglio locale, quello di Manbij ad Aleppo, ha sospeso i lavori per protesta contro gli eccessi compiuti dai militanti del gruppo jihadista ISIS, cioè lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, il gruppo legato ad Al-Qaeda. Alcuni consigli hanno avuto un maggiore successo rispetto ad altri che sono stati afflitti dalla conflittualità interna o che non sono stati capaci di destituire le strutture burocratiche del vecchio regime. Sebbene le attività principali si svolgano a livello locale, ci sono vari gruppi nati per coordinare e per fare rete a livello regionale e nazionale. Tra questi ci sono i comitati di coordinamento locale, i comitati di azione nazionale, la federazione dei comitati di coordinamento della rivoluzione siriana, eccetera, eccetera. Nessuno di questi rappresenta tutti i comitati e i consigli locali. Hanno strutture organizzative differenti e diversi livelli di coinvolgimento o di non coinvolgimento con l'opposizione politica ufficiale. Ad esempio, i comitati di coordinamento locale comprendono 14 comitati locali. È una rete decentralizzata di giovani attivisti con differenti retroterra etnici, sociali e religiosi che si concentra sull'organizzazione di campagne di disobbedienza civile, sulla controinformazione e sulla fornitura di aiuti umanitari, come anche la distribuzione di pacchi di cibo ed equipaggiamento medico di base ottenuti con donazioni individuali. All'inizio la LCC era sia contro la resistenza armata locale che contro l'intervento militare internazionale, sebbene di recente abbia sostenuto la richiesta di un intervento. Sebbene non sia abbia un allineamento politico, è uno dei pochi gruppi d'opposizione popolare che partecipa alla coalizione nazionale siriana, che è l'opposizione borghese in esilio. La sua campagna più recente, in seguito all'attacco chimico a Ghouta dell'agosto 2013, è stata di denunciare l'utilizzo di armi chimiche e di richiedere alle Nazioni Unite di investigare sull'accaduto. Nel luglio 2013 hanno avviato una campagna in cui chiedevano al popolo di non deviare dagli obiettivi originari della rivoluzione e di condannare le azioni di quei signori della guerra che secondo loro agivano unicamente per profitto personale e che erano diventati negativi quanto lo stesso regime. E poi la Shrooms passa a fare una disamina dei vari movimenti e comitati locali, tra cui appunto il movimento giovanile turco, l'Unione degli Studenti e via dicendo, e poi passa ai giornali, le riviste e i social media. Prima della rivoluzione c'erano gravi restrizioni sui media e sul diritto all'informazione. C'erano solo 3 giornali controllati dal governo, internet aveva grosse restrizioni e il suo utilizzo era monitorato. Questi fattori hanno indotto il Comitato per la Protezione dei Giornalisti ad indicare la Siria come il terzo paese più censurato al mondo. E con il più alto numero di arresti di blogger. Oggi i media indipendenti stanno sorgendo ovunque con 59 giornali e riviste rivoluzionarie. Ad esempio c'è Ossigeno, un settimanale fondato dai giovani di Zabadani, che pubblica articoli sulla sollevazione siriana e sulla resistenza pacifica, promuove l'etica rivoluzionaria e i suoi membri ne decidono collettivamente i contenuti. Un'altra rivista, Uve Locali, è stata fondata dalle donne di Daraya, vicino Damasco, ed è indirizzata a coloro che non hanno internet ed è distribuita per le strade. Sono state istituite numerose radio, come Radio Ana e Free Abroad Radio. È prosperato il giornalismo partecipativo come Photography from Lancy Out, una rete di collettivi di fotografi presenti in diverse città che documentano la vita e la guerra in Siria. Kajani Project è uno dei progetti di mediattivismo indipendente che produce brevi documentari sul movimento rivoluzionario con sottotitoli in inglese. Porta avanti, appunto, continua con l'elenco dei vari giornali e con l'elenco di altri gruppi non violenti di resistenza civile. E conclude Leila Shrooms con «La resistenza civile e popolare in Siria continua a vivere malgrado la crescente militarizzazione di ciò che è ora». Di ciò che è ora non solo una lotta rivoluzionaria, ma anche un conflitto brutale tra un numero crescente di attori. Questo articolo ha delineato solo alcune delle molte iniziative rivoluzionarie in corso in questo momento. La maggior parte di quelle sopra elencate ha raggiunto una scala nazionale, ma ce ne sono anche altre che a centinaia stanno avvenendo a livello locale, man mano che la gente prova ad organizzare sia il proseguo dell'attività rivoluzionaria, sia le loro vite nelle zone dove lo Stato è collassato. Queste iniziative sono senza dubbio le più positive sorte dalla primavera araba e hanno fornito una speranza ed energia ad una generazione che era nata e cresciuta sotto la repressione. Ma la resistenza civile affronta molte sfide su numerosi livelli, contro un regime tirannico, contro i gruppi di militanti jihadisti, contro le crescenti divisioni all'interno della società siriana. Con il peggioramento della situazione umanitaria e della sicurezza, molte iniziative hanno dovuto ridurre il proprio lavoro o trasformarsi da attività rivoluzionarie in fornitura di assistenza umanitaria. Altre si sono fermate del tutto, la maggior parte di queste non ha sostegno e solidarietà dall'estero, necessario affinché continuino, minacciando le speranze per un futuro che è più radioso del presente. E quindi questa è un'altra voce di siriani, in questo caso di anarchici siriani, che appunto tentano di rompere il silenzio assordante che soprattutto le cui colpe stanno soprattutto tra le fila della sinistra rivoluzionaria che ha snobbato per cecità geopolitica o anche solo per incapacità nel saper leggere i fatti sul campo o anche unicamente solamente perché certa sinistra rosica che nel resto del mondo gli arabi, che sono sempre stati visti come assoggettati e domi e domati, si stanno ribellando, quando invece noi ci troviamo sotto 3 anni di governo dell'austerità, senza riuscire a organizzare una minima resistenza a ciò che ci sta avvenendo, al massacro sociale che sta avvenendo nel nostro paese. Fatto sta comunque che la rivoluzione popolare in Siria continua, malgrado appunto sia il regime, gli sforzi del regime nel farla fallire, sia dei loro alleati nei gruppi jihadisti. E quindi noi, prima di passare agli ultimi articoli, ci lasciamo, ci ascoltiamo un altro stacchetto musicale. Ritorna in onda, ritorniamo in voce con Sorbina Intifada, la rassegna stampa mensile sui fatti internazionali di Radio Default, e quindi passiamo dalla Siria all'Egitto, rimanendo sempre nel Medio Oriente. E andiamoci a leggere, visto che ultimamente ci sono state la settimana scorsa, cioè la settimana che è appena finita, le elezioni, il referendum per l'approvazione della nuova Costituzione imposta ai militari, e noi quindi andiamo a leggere un articolo tratto anche qua, anche questa volta, da Comunia Network, l'Egitto al di là delle urne. Il 14 e il 15 gennaio gli egiziani sono chiamati ad approvare la nuova Costituzione redatta dai generali e loro alleati, dopo la deposizione del presidente Morsi, il massacro di Rabaa e l'instaurazione di un regime militare. Per l'ennesima volta in 2 anni le forze controrivoluzionarie utilizzano i seggi per soffocare la rabbia esplosa nel gennaio 2011 nelle strade e nelle piazze dell'Egitto. Parlare d'Egitto alla vigilia della certa approvazione della nuova Costituzione, che infatti è stata approvata con il 97% dei voti, aggiungo io, però con il 30% di votanti, degli aventi al diritto al voto che si sono recati alle urne, per dare qualche dato, significa parlare di controrivoluzione, di sangue innocente, di carcere piene, di soprusi e posti di blocco, di collusioni e tanto tanto silenzio. Dopo il 30 giugno e soprattutto dopo il disumano massacro di Rabaa, è come se la gente avesse consapevolmente deciso di mettere da parte quella dignità che era stata, prima ancora degli slogan, il motivo per cui si era scesi in piazza il 25 gennaio. E poi ininterrottamente per 2 anni fino alla deposizione del presidente Morsi. Quella dignità che ha portato l'Egitto a essere nel 2012 il paese con più scioperi, proteste e manifestazioni del mondo. Militari, polizia, stampa e vecchi sostenitori del regime hanno potuto creare un blocco sociale che di fatto non solo ha compiuto quello che aveva fallito nel 2011, ossia dividere e lacerare il paese, ma è riuscito a riporre gli egiziani in una sorta di gabbia, non solo retorica, per cui non si ha più voglia di contestare, di alzare la testa, di scendere nelle strade e dunque di protestare. Una gabbia costruita sul terrore della guerra al terrorismo, da cui è sempre più difficile uscire. Questo naturalmente non vuol dire che non esistano forme di resistenza al regime controrivoluzionario e fascista che è andato via via instaurandosi, ma che l'egemonia del dissenso, in tutte le sue componenti, ha lasciato il posto a una più generale remissività, quando non direttamente ad approvazione e sostegno attivo. Le centinaia di migliaia di donne e uomini che per mesi fino al giugno 2012 hanno riempito le strade e le piazze d'Egitto si sono rifugiate all'interno delle loro vite private, delle mura domestiche, del ristretto gruppo di amici, evitando, sempre più come ai tempi di Mubarak, di prendere pubblicamente posizione. È il momento dei sostenitori del vecchio regime, ritornati sulla scena con la solita tracotanza e prepotenza, dopo che una rivoluzione dai modi e dai toni del tutto pacifici, sarebbe ora di ricordarlo in maniera più convinta, li aveva risparmiati dalla sorte che avrebbero invece meritato. D'altro canto, l'opposizione, almeno quella che si rifà ai falliti e poi finiti fratelli musulmani, persevera con degli slogan che la gente stenta giustamente a condividere, perché anchilosati su principi, discutibili a priori come quello sulla legittimità elettorale, che non possono essere rivendicati da chi fino a qualche mese fa era il regime e non evitava di stringere patti con vari diavoli, torturando, arrestando, utilizzando milizie, sorridendo agli assassini, tutelando gli interessi economici dei predatori nazionali ed esteri, eccetera, eccetera. I fratelli musulmani, fin dal marzo 2011, sono parte integrante del processo controrivoluzionario, che in assoluta malafede contavano di poter cavalcare. E solo la loro ottusità politica ed ideologica, basti guardare cosa hanno fatto i loro amici timorati di Dio Salafiti, gli ha impedito di vedere fino a che punto il male li stava inesorabilmente divorando dall'interno. Le radici del loro pensiero odierno affondano nella disperazione di chi è stato, prima ancora che oppresso e represso, depotestato e sconfitto politicamente e socialmente. Per questo l'appello al boicottaggio del referendum è ancora più ridicolo. Certo, ora che le piazze sono piene di manifesti per un sì obbligato, che i poster del nuovo eroe nazionale in occhiali scuri hanno inondato persino le fiere dei Maulid d'Egitto, che i poliziotti, che il 28 gennaio erano con le braghe in mano, sono salutati e riveriti ad ogni posto di blocco, che la sicurezza interna dell'università è armata di fucile, che si finisce in carcere per 4 dita disegnate su un righello. È facile dire che era tutto prevedibile o addirittura previsto. Invece non è così. Alla vigilia del 30 giugno, quando i carri armati erano già pronti e quando vecchi e nuovi Felul, cioè i sostenitori del regime di Mubarak, avevano ornato di bandiere il paese, non restava nient'altro da fare che scendere di nuovo e riconquistare quel potere che il gioco elettorale aveva tentato senza riuscirci di imbavagliare. Perché una cosa non si dice mai, specie nella nostra Europa democratica, delle leggi antiprotesta. La controrivoluzione in Egitto ha la forma del seggio elettorale. Quello del marzo 2011 in primis e poi via via fino a questo referendum. Riflettiamo pure su quanto sarebbe stato e su quanto sia necessario al paese un governo rivoluzionario di unità nazionale che, guarda caso, non si è trovato mai il modo di costituire. Nessuno possiede la sfera di cristallo per leggere il futuro. Se c'è una cosa che la rivoluzione egiziana ha dimostrato e confermato è di saper prendere quelle strade inaspettate e insperate che nessun profeta e demagogo può comprendere, perché inerenti alla storia stessa. La gabbia che il nuovo fascismo sta costruendo non può essere aperta nonostante il sangue, gli arresti e la repressione. Gli studenti, ossia quei giovani esaltati dalla stampa occidentale e presto dimenticati, sono riusciti, nonostante le differenze, a far fronte comune quando si tratta di rivendicare i loro diritti e la scarcerazione dei loro compagni detenuti. Gli operai continuano a scioperare in tutto il paese. Non è affatto sicuro che la popolazione alla lunga non si stanchi di nuovo per i soprusi che deve subire, dei lutti che giorno per giorno affliggono le famiglie e soprattutto delle condizioni economiche che riempiono di poveri i marciapiedi dei quartieri più periferici e popolari. Le richieste del 25 gennaio sono ancora là. La piazza e le piazze pure. Dignità, pane, libertà e giustizia sociale. Su questo si può trovare l'accordo. Non è dato sapere quando e non è dato sapere come. Speriamo soltanto di esserci. E quindi, appunto, ho un articolo che dà una visione, anche qua la gran parte della sinistra italiana ha sostenuto il golpe di El-Sisi, perché è spodestatore dei fratelli musulmani, presidente dei fratelli musulmani, Morsi, che era illegittimo e che è stato deposto dalla più grande mobilitazione popolare che la storia umana abbia mai visto, ma che però è stata cavalcata dai militari, appunto dal generale El-Sisi, per sgonfiarla e per riprendere quel potere che era stato perso nel 2011. E sebbene i fratelli musulmani non ci piacciono, è vergognosa la campagna che sta venendo orchestrata, la campagna di repressione che vede anche ragazze di 15 anni condannate a 10 anni di prigione per 4 dita mostrate durante un sit-in. E soprattutto repressione che non colpisce soltanto gli islamisti, ma che va a colpire anche i militanti, i rivoluzionari quelli veri, che sono quelli che si occupano di organizzare le manifestazioni, quelli che partecipano agli scioperi e che appunto sono colpiti dalla nuova legge contro le manifestazioni e qua i compagni italiani che sostengono il regime militare dovrebbero farci un attimino i conti e pensare cosa succederebbe qua se il nostro governo facesse una legge contro le manifestazioni In mezzo insomma, tra le varie ondate repressive contro i rivoluzionari, andiamo a leggere un articolo lanciato dal MENA Solidarity Network, una rete britannica di solidarietà con i lavoratori del Medio Oriente, che parla di uno solo dei tanti casi di repressione. L'articolo si trova su menasolidaritynetwork.com, si intitola Egitto, gli attivisti di Alessandria dovranno affrontare 2 anni di prigione. Anche questo articolo è in inglese, quindi lo andiamo a tradurre facciamo subito una bella traduzione simultanea, quindi scusateci immediatamente sia perché non sappiamo leggere in arabo, sia per eventuali strafalcioni. Quindi, dei ben noti attivisti rivoluzionari di Alessandria sono gli ultimi di una lunga serie di attivisti che dovranno affrontare delle dure condanne e delle multe per aver sfidato le leggi antiprotesta. Luai Al-Khawaji, Amir Hafez, Nasir Abu Halamd e Islam Muhammadain sono stati condannati a 2 anni di lavori forzati in prigione e al pagamento di una multa di 50.000 sterline egiziane, equivalenti a circa 4.000 sterline britanniche. Tutto questo il 2 gennaio scorso. Lo stesso giorno Mahienur El-Masri ed Hassan Mustafa, entrambi attivisti di punta dei socialisti del Movimento dei Socialisti Rivoluzionari, hanno ricevuto la stessa pena ma non erano presenti in tribunale. Il loro crimine è stato di organizzare una manifestazione senza il permesso della polizia in violazione della nuova legge antiproteste che è entrata in vigore alla fine del 2013. Mahienur e Hassan hanno un lungo percorso di attivismo. Entrambi hanno svolto un ruolo importante nel costruire la campagna che puntava a rendere pubblico il ruolo delle forze di sicurezza nell'orribile omicidio di Khaled Said, che ricordiamo, per chi non segue la faccenda, è un po' lo Stefano Cucchi egiziano, un blogger che è stato pestato a morte fuori da un internet caffè dalle forze del regime di Mubarak nel 2010. Le proteste che hanno seguito l'omicidio di Said hanno svolto un ruolo cruciale nel galvanizzare l'opposizione a Mubarak fino alla sollevazione del 2011 che ha deposto il dittatore. Hassan è stato anche processato durante il periodo in cui era al potere Mohamed Morsi, dopo aver tentato di inoltrare un reclamo sulla mancanza di rappresentanza legale per decine di manifestanti arrestati il 20 gennaio 2013, ha dovuto affrontare una serie di accuse che includevano, tra le varie cose, l'aggressione al pubblico ufficiale e l'aver incitato i detenuti a fuggire. È stato assolto da queste accuse nel novembre 2013 solo per essere accusato nuovamente a causa delle leggi antiprotesta. Mahienur invece è avvocatessa iscritta all'albo che è stata arrestata e picchiata dalla polizia nel marzo 2013 dopo che era andata con un gruppo di altri avvocati a rappresentare i manifestanti arrestati alla stazione di polizia di Alessandria. Le pene contro gli attivisti di Alessandria vengono dopo che i leader del movimento 6 aprile, del movimento giovanile del 6 aprile, sono stati condannati a 3 anni di galera da un tribunale del Cairo il dicembre scorso. Poi il MENA Solidarity Network continua con una serie di indicazioni utili per gli attivisti inglesi per costruire una campagna di solidarietà in Inghilterra con appunto questi arrestati. E quindi questo appunto è un altro monito alla sinistra italiana che sostiene il golpe militare. Noi andiamo a fare un'ultima pausa musicale e ci andiamo a sentire i Dem, Dabka on the Moon. مش شباك كل الزعماء كل الرقابات طلع شاشات هلا نايس مار احرق دولارات الفساد واذا في جلهان يبقى اركب عورا الكتاب نفرز بقرب العالم هدفنا كل يرسم حوالينا وانا بنفس النقطة روس ابوال فيه وبنزين في عينا بطلع السماء وبسأل شو ناقصنا ونقصنا الا شوية كرامة بس هت المرمى هت القائد شي ما سوى لبلاد برا لقوا الهوى شطرين بالرشوة بتقديم القهوة للحلمين أن ندور للترويض وهيك بالحديد احنا بنتلوى كارفرس بقرب العالم هدفنا كل يرسم حوالينا وإحنا بنفس النقطة روس أموال فيه وبنزين في عنا بطلع السماء واسأل شو ناقصنا Ritorniamo in voce con Surbina Intifada, la rassegna stampa mensile sui fatti internazionali qui a Radio Default e ci muoviamo stavolta dal Medio Oriente, dall'Africa, specificatamente degli ultimi articoli, all'Europa, perché non è vero che non succeda nulla in Europa. Andremo a leggere gli ultimi due articoli della nostra rassegna mensile parlando di Burgos, Atene e Amburgo. Passiamo ora appunto a Burgos, dove c'è stata una rivolta contro la speculazione edilizia nella Spagna, che ha visto il proprio boom cinese, l'ormai fallito boom in stile cinese, fondarsi proprio appunto su essenzialmente sul mattone. E ci andiamo a leggere anche qua un tema ben poco trattato dalla stampa mainstream. Andiamo a leggere dalla Privata Repubblica un articolo di Blicero intitolato appunto La rivolta di Burgos. Il sole splende sul viale ordinato, pulito e alberato. Gli autobus nuovi di zecca e le macchine scorrono placidamente nelle due corsie prive di buche. I ciclisti pedalano al sicuro in mezzo alla pista ciclabile, mentre i pedoni passeggiano tranquilli sugli ampi marciapiedi. Un perfetto jingle da centro commerciale accompagna il tutto. E in allegato all'articolo c'è appunto il video, questo stucchevole video che dovrebbe presentare appunto la costruzione del nuovo boulevard. Questo ritratto idilliaco di come dovrebbe essere una moderna città europea è lo spot realizzato dal comune di Burgos, città di 180.000 abitanti nel nord della Spagna, per pubblicizzare il progetto del nuovo boulevard della Calle Vittoria nel quartiere Gamonal. Un progetto che, come esclama con innaturale enfasi la squillante voce pubblicitaria, dovrebbe portare Gamonal nel XXI secolo. Peccato che in queste giornate d'inizio 2014 il Gamonal del XXI secolo abbia visto tutt'altro: barricate, cassonetti in fiamme, scontri furiosi con la polizia e vetrine sfondate. La rivolta della popolazione del quartiere inizia il 10 gennaio. Alcuni comitati locali convocano una manifestazione contro il progetto, che tra le altre cose include la realizzazione di un parcheggio a pagamento incluso nel nuovo viale, attualmente i posti sono gratuiti. All'appuntamento si presentano almeno 200 persone. Col passare delle ore però la partecipazione aumenta considerevolmente. Verso le 10 di sera, almeno stando alla versione della polizia, gli agenti caricano i manifestanti a seguito di un lancio di pietre, bottiglie ed altri oggetti. La battaglia va avanti per tutta la serata. I manifestanti, racconta Contropiano, passano all'offensiva rimuovendo le transenne che limitavano l'accesso al cantiere del contestato parcheggio sotterraneo ed incendiando alcuni contenitori della spazzatura, cabine telefoniche e addirittura una fermata del bus. Anche le vetrine di alcune banche vengono prese d'assalto. La prima notte di tumulto si chiude con 17 arresti e parecchi feriti. E qua c'è un punto, viene allegato un video in cui si vedono appunto l'ingresso nel cantiere, ma non è finita qui. Nei giorni successivi la protesta dilaga e gli scontri con la polizia aumentano di intensità, portando all'arresto di più di 40 persone. Il governo conservatore di Mariano Rajoy, lo stesso che vuole far approvare leggi a dir poco liberticide per impedire qualsiasi manifestazione, decide di inviare un contingente di 100 agenti per placare i riot. Nel frattempo appare sempre più evidente che il boulevard è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che a Burgos si stia protestando contro qualcosa di più profondo di un semplice viale. Un po' potremmo dire noi, aggiungere noi, come è stata la rivolta di Gezi Park a Turchia e poi ad Istanbul e poi in tutta la Turchia. Per anni, addirittura prima della bolla immobiliare che ha messo in ginocchio il paese iberico, Burgos è stata una delle città spagnole in cui il prezzo delle case era tra i più alti, superata solo da Madrid, Barcellona e San Sebastián. Eppure Burgos è una città di medie dimensioni, storicamente conservatrice e senza troppe particolarità. Non è una città dove c'è stato un miracolo economico, non è una zona esclusiva o di lusso. Ignacio Escolar, giornalista di El Diario e nativo della città, ha individuato le cause di questa anomalia nella corruzione e nella speculazione edilizia. Due fattori che, nel caso di Burgos, si intrecciano in una sola persona, il costruttore Antonio Miguel Méndez Pozo, detto El Jefe, e considerato da molti il manovratore nemmeno troppo occulto della vita politica del comune. Ovviamente io mi scuso anche per la mia pronuncia in castigliano. Nel 92 Méndez Pozo venne condannato a 7 anni e 3 mesi di carcere per una gigantesca frode sugli appalti pubblici. La condanna, tuttavia, non fermò la sua ascesa. Nell'arco di due decenni El Jefe è riuscito a creare un impero economico che include radio, televisioni, giornali, tra cui il Diario de Burgos, il principale quotidiano della città, e aziende edilizie. È sua, infatti, una delle aziende legate al Partito Popular, il partito di destra che esprime il sindaco della città, Javier Lacalle, che hanno ideato il piano di riqualificazione di Calle Vittoria. Per i cittadini il boulevard non è quindi solo uno spreco di denaro pubblico, 8 milioni di euro per un comune che ha accumulato oltre 500 milioni di debiti. È l'ennesima aggressione speculativa ai danni di un quartiere fortemente colpito da crisi e disoccupazione che, logicamente, avrebbe ben altre esigenze. Un abitante, riferendosi al progetto, ha dichiarato a El País: è tutto molto estetico, tutto molto carino, ma per noi è inutile. Un giovane intervistato dal quotidiano La Marea ha spiegato così le ragioni che stanno dietro alla sommossa. Quello che sta succedendo non è uno sfogo violento. Si vogliono sperperare milioni di euro subito dopo aver chiuso gli asili nido più importanti per il quartiere, perché si suppone che non ci siano soldi, mentre si rinuncia ad accendere l'illuminazione pubblica e si riducono le ore di apertura dei centri civici. Non stupisce quindi che gli abitanti abbiano supportato la protesta sin da subito e ripudiato la narrazione mainstream degli eventi che ha creato di addossare la responsabilità degli scontri a violenti infiltrati venuti da fuori. Un residente ottantenne si è speso in difesa delle persone arrestate. Hanno agito per giusta causa, è il sindaco a dover essere cacciato da Burgos. Una piccola commerciante ha detto, sempre alla Marea, di non essere coinvolta in questi disordini, ma di comprenderli appieno. Le persone hanno protestato pacificamente per 2 mesi. Le ho visti sfilare più volte, ma il comune non le ha mai ascoltate. Ora hanno bruciato qualche cassonetto e, guarda caso, tutta la stampa nazionale è qui. Il 13 gennaio il Partito Popular, dal momento che la protesta non accennava a spegnersi, ha cercato di convincere il sindaco di Burgos a rinunciare al progetto. In un primo momento la CAIE garantisce che l'opera si farà comunque. La sera del 15 gennaio è però costretto a capitolare, annunciando il blocco dei lavori per motivi di sicurezza. E durante la conferenza stampa la CAIE non perde l'occasione per lamentarsi della pessima immagine che i disordini avrebbero dato alla città, insistendo che non corrispondevano alla normale realtà di Burgos, una realtà che, come visto in precedenza, è di gran lunga più sordida e compromessa della protesta vista di questi giorni. Il famoso sociologo americano Robert Park scrisse che la città è il più riuscito tentativo da parte dell'uomo di plasmare il mondo in cui vive in funzione delle sue più intime aspirazioni. Ma se da una parte la città è il mondo creato dall'uomo, dall'altra è anche il mondo in cui è condannato a vivere. Così, costruendo la città, l'uomo ha ricostruito indirettamente, senza rendersene pienamente conto, se stesso. Condannati a vivere in un mondo creato dalle cricche locali, gli abitanti del quartiere Gamonal, che già nel 2005 si erano rivoltati per ragioni simili, non hanno fatto altro che rivendicare con forza un diritto che era stato progressivamente usurpato dalla speculazione serrata degli ultimi anni, il diritto alla loro città. E quindi questo appunto, passiamo poi da Burgos ad Atene ed Amburgo. L'articolo, l'autore è sempre Blicero dalla Privata Repubblica, con zone a democrazia limitata nella fortezza Europa. 8 gennaio 2014, il grande giorno. La Grecia assume ufficialmente la presidenza di turno dell'Unione Europea e celebra l'evento ad Atene in pompa magna. Il ministro delle finanze, Yannis Stournaras, evidenza con grande enfasi i nascenti segni di ripresa economica e dichiara che la crescita, dopo 6 anni di recessione durissima, è ormai alle porte, nonostante il tasso di disoccupazione sia oltre il 27%. Dopo enormi sacrifici, la Grecia è in grado di dire che la crisi è quasi alle spalle, afferma trionfante Stournaras. Nella capitale greca arrivano anche il presidente della Commissione europea, Barroso, il presidente del Consiglio europeo, Van Rompuy, e vari signori dell'austerità che per l'occasione banchettano con un menù non troppo austero preparato dallo chef Dominique Perrault, in passato cuoco ufficiale di François Mitterrand. I funzionari europei pranzano con dell'ottimo risotto francese, una pregiata orata condita con verdure, cioccolata speciale e yogurt, innaffiando il tutto con vini rossi e bianchi. Fuori dalle stanze ufficiali, intanto, il centro di Atene è completamente blindato e qualsiasi tipo di protesta è severamente bandito. La ragione ufficiale del divieto di manifestare? Ordine pubblico. Quella ufficiosa, dobbiamo fare bella figura con i padroni dell'Europa, quindi non rompete il cazzo. Qualcuno prova a sfidare il divieto, ma la polizia prontamente soffoca il dissenso con l'usuale zelo. E qua, cioè, viene allegato il tweet di Enough14 che fa vedere appunto la polizia che carica i manifestanti. Abbastanza ironicamente, Atene, ossia una delle capitali più impoverite d'Europa, condivide la sospensione del diritto di manifestare con Amburgo, la seconda città della Germania del miracolo economico. Dalla notte del 4 gennaio 2014, infatti, nella città tedesca vige una specie di coprifuoco in un'ampia fetta della città, quartieri Sternanz, Sancti Poli e adiacenti, imposto unilateralmente dalle autorità dopo diverse settimane di tensione sociale e politica. E qua questo articolo molto social network allega anche un altro tweet con una foto in cui c'è un volantino bilingue tedesco e inglese in cui si ammonisce gli abitanti di questi quartieri del coprifuoco, o come si dice in tedesco, Gefahrengebiet, qualcosa del genere. La zona di pericolo, appunto questo Gefahrengebiet, coinvolge circa 100.000 abitanti, e chiunque vi si trovi dentro può essere controllato, perquisito, detenuto arbitrariamente dagli agenti che presidiano il quartiere giorno e notte. Questo video mostra piuttosto chiaramente il clima marziale che si respira ad Amburgo. Ma come si è arrivati a questo punto? Nelle ultime settimane la protesta ad Amburgo si è concentrata su molte questioni diverse tra loro, ma strettamente interconnesse. Le principali sono sicuramente la gentrificazione galoppante nel centro della città, soprattutto nei quartieri di Sancti Poli e Sterschanze, il possibile sgombero del Rote Flora, un vecchio teatro occupato dal 1989 che da più di 20 anni è il centro nevralgico della sinistra autonoma di Amburgo, e i diritti dei migranti rifugiati. A quest'ultimo proposito, ad Amburgo c'è un gruppo, Lampedusa in Hamburg, di più di 300 rifugiati provenienti da Lampedusa. 70 di loro sono ospitati dalla chiesa di Sancti Poli e vivono con il terrore di essere rimpatriati. Nell'ottobre 2013 la polizia ha cominciato a fermare stranieri e persone di colore, cercando di ottenere i nomi dei rifugiati. La manifestazione di protesta indetta contro la caccia all'uomo è stata repressa dagli agenti dopo qualche minuto. Bisognava prevenire possibili violenze. Il pugno duro mostrato in quell'occasione ha esasperato la situazione e di fatto aumentato le tensioni, che sono culminate nel pesante riot del 21 dicembre 2013. Secondo diversi articoli, la manifestazione è stata subito bloccata dalle forze dell'ordine, causando la reazione rabbiosa delle 10.000 persone accorse davanti al Flora. La polizia ha usato idranti, manganelli e spray al peperoncino per sgomberare l'area. Alla fine della giornata sono stati più di 300 i fermi, 19 arresti, 500 feriti tra le file dei manifestanti e 117 tra i poliziotti. Il 28 dicembre la stazione di polizia di David Wache è stata attaccata con sassi e bottiglie da un gruppo di persone che avrebbero anche ferito 3 agenti. Sebbene non vi sia la certezza su chi abbia realmente compiuto l'assalto, le forze dell'ordine hanno individuato i colpevoli sin da subito: 30-40 autonomi di sinistra mascherati e violenti. L'attacco alla stazione ha lubrificato per bene il frame politico-mediatico per la creazione della zona rossa, che puntualmente è stata dichiarata qualche giorno dopo. Nonostante il coprifuoco, nella zona di pericolo ci sono state diverse manifestazioni spontanee e gli attivisti hanno cominciato a portare con sé oggetti pericolosissimi per far perdere tempo ai poliziotti. E viene allegata una foto di questi oggetti pericolosissimi, che sono quella che sembra una zucchina incellofanata a cui è legata una miccia, una banana con una miccia, una ciliegia, no, una noce con una miccia, una cipolla con una miccia, un barattolo a quanto pare di origano e un accendino. Non è la prima volta che le autorità tedesche usano una misura simile. Come riporta la Deutsche Welle, sin dal 2005 la zona di pericolo è stata usata più di 40 volte, ma quasi sempre solo per poche ore e in vista di eventi sportivi o manifestazioni a rischio. Joachim Lenders, membro del sindacato di polizia di Amburgo, ha ricordato che in passato la zona rossa aveva funzionato bene nel contrasto alla droga in un parco non lontano da Roteflora. È chiaro che questa volta ci troviamo di fronte a qualcosa di completamente diverso. Antje Möller, portavoce del Partito dei Verdi, ha criticato la misura con queste parole: «Solo il dialogo politico può funzionare, non il concedere più potere alla polizia. Sono preoccupata che questo possa portare a un'escalation che nessuno di noi vuole. Finora ci sono stati un arresto e centinaia di fermati, e non è chiaro fino a quando durerà il coprifuoco. È tuttavia probabile che nei prossimi giorni assisteremo più volte a scene del genere». Da Atene ad Amburgo e Amburgo, la Fortezza Europa si barrica non solo sui confini, ma anche all'interno di essi, e dispensa l'ordine perentorio ai suoi cittadini: non protestate, non lamentatevi, non accampate pretese. Dopotutto siete perfettamente liberi di fare quello che noi vi diciamo di fare. E quindi con la... con questo ultimo articolo di Blicero sulla Privata Repubblica, che trovate su laprivatarepubblica.com, si chiude questa puntata numero 0 di Surbina Intifada, di Rassegna Stampa Internazionali mensile. Noi non sappiamo se ritorneremo o quando ritorneremo, probabilmente il terzo sabato di febbraio, ossia il 16 di febbraio, quindi per goderci, per stappare questo nuovo San Valentino di solitudine. Noi vi chiediamo scusa per le voci impastate, vittime ancora del sabato sera, e ricordiamo sempre che non c'è voce più forte della voce della sollevazione.